con Daniele Rinaldi di Nome Officina Politica per presentare Rieti Dossier Idroelettrico. Ben trovato. Ben trovati a voi tutti, grazie di averci ospitato. Partiamo dal soggetto Nome Officina Politica, che realtà è? È un'associazione che nasce a Rieti 4 anni fa, è un'associazione civica che vuole fare politica. In questi 4 anni abbiamo affrontato diversi temi nella città di Rieti, ma sempre anche con lo sguardo fuori dal capoluogo, guardando a tutta la provincia, ai rapporti con le regioni vicine, in particolare con Terni. Insomma, siamo un'associazione, ci definiamo un po' con i piedi a Rieti, ma con gli occhi e la mente in tutto il centro Italia. Questo è lo spirito con cui cerchiamo di approcciare. Su quale tematiche? Abbiamo affrontato diverse tematiche. Dall'anno scorso abbiamo portato avanti una iniziativa molto interessante, ovviamente in tema Covid, tenendo un blog molto seguito che ha fatto il punto, sta facendo, sulla situazione dei farmaci, della ricerca, dei vaccini e in particolare anche sull'andamento della pandemia, in particolare ovviamente nella provincia di Rieti, che insomma ci ha dato molta soddisfazione, è diventato un po' anche un punto di riferimento, in quanto eravamo l'unico soggetto che analizzava i dati trasmessi dalle ASL e li metteva a confronto anche con quelli che erano i dati nazionali, quindi questa è un'attività che ci è stata molto riconosciuta. Poi abbiamo svolto comunque diverse attività nell'ambito anche dell'elaborazione statistica sull'economia su Rieti, abbiamo assunto delle iniziative sulle infrastrutture, sulla sanità. Ultimamente stiamo portando avanti una iniziativa su Rieti di sostegno alla povertà, insomma cerchiamo di fare un po' tutto quello in cui un'associazione civile può incidere in una piccola città come Rieti. Come si arriva al Rieti Dossier Idroelettrico? Proprio questo è lo spirito che ci ha portato all'idroelettrico, perché noi siamo un'associazione molto eterogenea, quindi costituita da persone di diverse estrazioni professionali, politiche e in particolare in quest'ultimo anno, partendo come spunto dalle inondazioni che ci sono state a Rieti, abbiamo voluto un po' riprendere in mano il filo del discorso rispetto alla gestione dell'idroelettrico, di cui periodicamente a Rieti e in provincia si viene a parlare, ma che poi alla fine si è riesce sempre nel giro di qualche comunicato stampa o di qualche articolo di giornale. Quindi noi abbiamo voluto fare un'attività un po' più specifica, tipo anche divulgativo, realizzando un dossier idroelettrico per fare il quadro generale della situazione, capire quelle che sono le opportunità, i vincoli rispetto alla gestione di questa importante risorsa per Rieti e in qualche maniera, da un punto di vista, aiutare anche gli amministratori pubblici a avere un quadro un po' più chiaro rispetto ad una tematica molto, molto frastagliata e al tempo stesso anche rendere consapevoli i cittadini della grande risorsa che hanno sotto le mani, ma che appunto forse per il fatto di vederla così costantemente diventa scontata e non ci si rende conto effettivamente delle possibilità che ci sono sotto. Quali sono le criticità che avete individuato e quali soluzioni prospettate? Ci sono due tipi di criticità, una criticità di gestione ambientale e una criticità di tipo economico. Tutte e due hanno come comune denominatore una situazione di atteggiamento predatorio spesso da parte voi delle multinazionali, voi dicono una cosa forte da parte della regione Lazio rispetto alla provincia di Rieti. Mi spiego meglio. Allora, per quanto riguarda gli aspetti ambientali, sicuramente c'è da dire che la gestione dei corsi d'acqua, quindi non parliamo solo di dighe, ma anche di tutto il sistema idrografico che è connesso. Dicevo, la gestione del sistema idrografico probabilmente non è stata svolta in questi decenni come sarebbe dovuto essere. Se è vero, come per esempio è stato illustrato in Consiglio Comunale a Rieti, il fatto che il deflusso, per esempio, del fiume Velino è oggi un terzo rispetto a quello che era 50 anni fa. Così come è vero che spesso i comuni, piuttosto che la provincia, sono costretti a intervenire in situazioni di manutenzione dei fossi, piuttosto che delle strade che sono affiancate a fiumi e laghi, quando invece queste attività dovrebbero essere di competenza del concessionario. Noi siamo quasi certi che probabilmente non c'è proprio coscienza di quelli che sono gli obblighi del concessionario che poi sono espressi da un disciplinare di gestione e proprio per questo abbiamo voluto mettere in evidenza questi aspetti dal punto di vista ambientale. Parliamo per esempio ancora del ristoro della fauna ittica che in nessuna maniera viene curata dal concessionario, è tutto affidato invece a iniziativa dal punto di vista dell'ente provincia piuttosto che della regione. Questo sicuramente non è dal nostro punto di vista accettabile. Poi c'è anche il tema economico, che è forse ancora più impattante, perché a fronte di enormi guadagni da parte del concessionario e guadagni da parte della Regione Lazio per i canoni che riscuote, abbiamo verificato che effettivamente sul territorio ricadono meno che le briciole, e questo è un problema politico che intendiamo sollevare. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Il dossier è pubblicato sul sito della nostra associazione www.nomeofficinapolitica.it. Sotto la sezione idee è suddiviso in 8 paragrafi, ciascuno affronta un tema, un approfondimento, quindi si parte da un quadro generale di che cos'è la produzione idroelettrica e la quantifichiamo, dopodiché illustriamo come si assegnano le concessioni idroelettriche e in particolare quello che sta succedendo nella Regione Lazio, perché ecco, questo è un passaggio importante. Questa fase storica è fondamentale per tutte le province del Lazio, in quanto si sta discutendo quelle che saranno le regole del gioco per i prossimi 30 anni e quindi le modalità appunto con cui verranno affidati queste concessioni, a che tipo di soggetto verranno affidate le concessioni, ente privato piuttosto che partenariati pubblico-privati, e anche aspetti tecnici, appunto, come dicevo, legati alla gestione delle risorse ambientali. Sempre nel dossier affrontiamo alcuni aspetti che riteniamo utili rispetto al tipo di rapporto che dovrebbe avere un territorio per avere un rapporto fruttuoso con un concessionario, in maniera tale da instaurare un tipo di rapporto di crescita per entrambi e non sia soltanto un atteggiamento predatorio. E nel nostro piccolo formuliamo anche una proposta per una legge regionale che possa in qualche maniera valorizzare le peculiarità delle province, in particolare delle province montane, come possono essere Rieti, ma anche per esempio Viterbo o Frosinone, che ha avuto quest'inverno delle problematiche di allagamento simili a quelle che sono accadute a Rieti. Quindi questo è il contributo che noi come associazione vogliamo dare un po' ai cittadini, alla politica. Questo dossier viene diffuso presso tutti i soggetti politici, sia locali che in prospettiva verrà trasmesso in maniera ufficiale alla regione, nelle persone dei componenti della giunta e i vari consiglieri, e speriamo che questo possa in qualche maniera quantomeno suscitare un dibattito. Per noi sarebbe, per noi, ma soprattutto per tutte le province del Lazio, sarebbe importante, perché non sia una cosa che venga calata semplicemente dall'alto, ma sia una cosa consapevole. Rieti dossier idroelettrico. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Rinaldi di Nome Officina Politica. A risentirci presto. Grazie a voi e grazie per lo spazio che ci avete concesso.